Grazie. Siete pronti? Allora, ciao a tutti innanzitutto. Cominciamo con le presentazioni, così insomma sapete chi avete di fronte, nel senso come minaccia, insomma, nel senso che... io mi chiamo Alessandro, insieme a Gianluca faccio parte di Linge, questo gruppo, insomma, che è nato un po' di anni fa su internet e che poi a un certo punto ha cominciato a pubblicare quella che era la sua esperienza, che fondamentalmente tratta di illustrazione, fumetto illustrazione, ha cominciato a trasportarla su una rivista. Una rivista che ormai è giunta all'ottavo numero, se non anche al nono, che sta arrivando insomma tra un paio di mesi, ed è un quadrimestrale che esce ogni ormai due o tre anni. E quello che abbiamo trattato sempre noi, la nostra rivista era vedere il fumetto e l'illustrazione da un punto di vista, come dire, antologico, cercando di mettere dentro delle storie a fumetti di autori che magari non avevano nemmeno tanto spazio in Italia, che a noi piacevano particolarmente, e cercare di trasportare quello che era il loro segno, insomma, e le loro storie qui in Italia. Siamo stati i primi a pubblicare un certo tipo di autori. Delle volte però abbiamo fatto anche dei numeri tematici in cui il fumetto veniva messo a disposizione come mezzo per raccontare una storia oppure aspetti di quella che era la vita reale, perché comunque abbiamo sempre cercato di ci è sempre molto interessato raccontare attraverso i fumetti e le illustrazioni la vita reale. A un certo punto abbiamo voluto vedere, insomma, un aspetto della vita reale, qual è quella del carcere, attraverso il mezzo del fumetto, per cui cercare di vedere, perché insomma il carcere è un po' come un'isola in mezzo alla società, e cercare di guardare il carcere magari può servire a vedere come si riflette la società nei confronti della repressione e del vivere quotidiano e anche della produzione, come magari potremmo vedere più avanti o come abbiamo visto più o meno nei filmati che sono passati prima. Per cui quello che abbiamo fatto è cercare di raccontare attraverso delle immagini, perché fondamentalmente è un numero molto ricco pieno di immagini, questo rispetto a tanti altri, quello che poteva essere il carcere visto da una parte e dall'altra, dall'esterno e da dentro, da quella che poteva essere anche una fessura oppure uno scarafaggio delle volte, fino a storie passate di gente, insomma, che ha avuto a che fare con questo. E niente, insomma. Magari Gianluca ve la spiegherà meglio, insomma, questa questione del... Io sono il traduttore italiano. Sì, diciamo che ha detto già questa cosa. Comunque, per spiegarvi, prima di tutto sarebbe interessante dirvi, che magari non lo sapete, quanto è difficile riuscire a fare un fumetto che parla di queste cose in Italia. Non perché è difficile pubblicarlo, perché basta che tirate fuori 1.000 euro e chiunque ve lo pubblica, ma perché gli autori italiani vengono sempre spesso visti un po' come qualunquisti, come gente che non può dire queste cose. Gli altri disegnatori, noi viviamo in un mondo in Italia dove c'è molta creatività nel mondo del fumetto, ci sono da Topolino alle cose più artistiche e più d'autore. Ma quando un autore di fumetti cerca di affrontare questo tipo di tematiche viene sempre guardato male, non so come dire, non è credibile nella nostra società che uno usi i fumetti per dire queste cose. Nonostante invece negli altri paesi, non tanti, alcuni, questo modo di manifestare le proprie idee viene molto usato, l'immagine è molto usata per mostrare la propria anche protesta per alcune idee. Il tema del carcere è stato affrontato già da altre riviste di fumetti internazionali, la più famosa sono quelle di Brooklyn di World War III, che sono un collettivo proprio politico che fa fumetti. E quando abbiamo deciso di fare questo numero qui, io non lo volevo fare, perché proprio per questo, che c'erano già stati altri che avevano parlato di questo problema, e che era il carcere. Poi loro mi hanno convinto e sono molto contento di averlo fatto, e soprattutto sono molto contento che in questo numero di Invent ci sono solo autori italiani che hanno lavorato, mentre noi siamo solitamente molto esterofili nella nostra pubblicazione. E penso che, nonostante pochi di queste persone che sono qui elencate hanno avuto un contatto diretto con un carcere, o hanno avuto un contatto diretto con qualcuno che è in carcere, alcuni casi proprio tipo UBQ, e forse chi ha scritto il testo, lui e Jack Lamotta, che non è presente, hanno avuto contatti diretti con persone che sono state in carcere, almeno altri io non lo so. Io personalmente non conosco persone che sono state in carcere, e non sono mai stato dentro un carcere, e quindi questo fa sì ancora che io sia meno credibile che abbia parlato di un carcere. Però a volte il carcere non è proprio solo quell'edificio che c'è vicino alla nostra via di casa, per esempio ce n'è uno vicino, ma non sono mai entrato. Ma non sempre bisogna entrarci in un carcere, il carcere può essere poi messo in tante circostanze, anche meno più sociali. Forse non mi sono spiegato per niente bene, però io volevo dire questo, per dire che anche se siamo italiani, siamo riusciti a fare questo lavoro qui, e che ha avuto moltissima risposta da chi l'ha letto. E non è per niente onirico, come succede spesso su questi argomenti, mi sembra che sia molto reale, quindi temi affrontati.